Delle domande, una serie di questioni, io spero di rispondere. Faccio prima un'introduzione e poi spero di rispondere. Se non c'è qualcosa ancora che non va, oppure che è qualcosa che va suggerito, interrompetemi quando volete e poi se mai dopo, quando ho finito, vi chiedete come volete voi. Io partirei da un presupposto, cioè che la cultura in cui ci muoviamo è la cultura del veloce e del pieno. Veloce e pieno, cioè bisogna essere veloci, compiere tutto in maniera rapida e poi tutto deve essere pieno, cioè nel senso che anche per i figli la giornata deve essere piena, se no succede chissà che cosa, mentre invece se uno insegue il pieno della giornata si corre il pericolo di dimenticare il perché della giornata. Uno riempie, poi arriva alla fine della giornata e gli sembra di non aver fatto ancora niente. E quindi la giornata dopo lo vuole riempire ancora di più e poi serve ancora di più finché non c'è più spazio e in realtà non si è fatto niente. Si perde di vista che ognuno è un universo e che l'universo è fatto per ognuno di noi. Cioè, come ciascuno è un universo e ciascuno di noi lo è, tutto l'universo è fatto anche per lui, per lei. Cioè, tutto il mondo da cui siamo circondati, se uno ci pensa bene, è un dono fatto per me, così come io sono un dono fatto per l'universo. E anche i figli sono un universo diverso da me e diverso anche da mia moglie piuttosto che da mio marito. Da qui nasce lo stupore. Lo stupirsi dinanzi al tutto e al poco, e anche lo stupirsi dinanzi al cogliere la vita come un compito. Questo io non pensavo, però il fatto di parlare della vita come un compito è una cosa che lascia molti straniati, e invece la vita è un compito e il coglierla come un compito aiuta moltissimo, perché fa sì che uno si senta chiamato a fare qualche cosa. E allora non c'è più spazio per la noia. Non c'è più spazio per la noia e non c'è più bisogno di riempire la giornata con un uovo. Perché il solo fatto di esserci ha un significato. E quindi non devo riempirlo con mille cose da fare e con mille stress che non mi aiutano e che non mi servono. Invece la nascita e la crescita di questo stupore diventa costruttivo. E anche la vita come compito, non come un compito pesante, ma come un compito costruttivo. E nel fare le cose Dio stesso si costruisce. Cioè, se da un lato non dobbiamo cadere nel fare un sacco di cose, tante, troppe cose, dall'altro lato anche non fare niente chiaramente non va bene. E nel fare anche le cose materiali, l'io si costruisce piano piano. A qualsiasi livello. Non dà fastidio, non è completamente d'accordo. E la vita come compito non gli piace troppo. A qualsiasi livello questo, sia intellettuale che manuale. Allora ecco, non bisogna confondersi e pensare che un lavoro sia più importante dell'altro, perché anche a livello manuale l'uomo facendo si compie. Così come anche a livello intellettuale, a ciascuno il suo. E in quell'io corporeo, che non è prigioniero del proprio corpo, però, ma usa come strumento linguistico il proprio corpo per esprimersi verso gli altri, anche verso di sé. Cioè questo corpo che abbiamo, questa pelle che abbiamo, è lo strumento linguistico con cui possiamo metterci in contatto con gli altri. E questo è fondamentale anche per capire il valore dell'affettività, perché in questo, nel linguaggio del corpo, nel linguaggio del trasmettere comunicazioni l'uno all'altro, ci sono anche le espressioni degli affetti e dell'affettività che permea all'uomo nel suo essere anima, psiche e corpo. Quindi sia l'anima che la psiche che il corpo sono permeati dall'affettività. Quindi c'è l'io, c'è l'universo e c'è lo stupore, che sono tre elementi di grandissima importanza e di grandissimo valore anche. E ecco, L'importanza della pelle, allora, non è che una carezza data all'altra persona è indifferente. Cioè la carezza data all'altra persona non è un qualcosa che ci può stare come ci può anche non stare. Ci sta ed è fondamentale nel momento in cui diventa dialogo affettivo nella coppia e da parte della coppia verso i figli. È chiaro che in quel momento io non penso... No, guarda che non dà fastidio, cioè se non si sente... No. È chiaro che in quel momento non penso alla carezza come epidermide, ma penso all'emozione che mi trasferisce la carezza, così come penso all'emozione che voglio dare accarezzando la moglie piuttosto che il marito, piuttosto che il figlio. Però, ecco, l'importanza di quest'unione tra anima, psiche e corpo e l'universo che ci circonda. Allora il valore di me ed il valore dell'altro, che è un valore assoluto, cioè sia il mio valore che il valore dell'altra persona non è un valore che io attribuisco perché per un preconcetto, cioè perché so che è così, quindi deve essere così. No, perché io lo riconosco nell'altro, perché non c'è uno che sia simile all'altro. Anche quando nascono due gemelli, dopo 3 minuti sono già completamente differenti l'uno dall'altro, perché basta un'esperienza esperienziale, appunto, un'esperienza esperienziale leggermente diversa che modifica ciò che è uno rispetto all'altro. Nella coppia, marito e moglie, fidanzati, marito e moglie, nonni, genitori, l'io e il tu che formano il noi hanno bisogno di qualche cosa, cioè hanno bisogno di un uovo, di un contenitore, e senza questo contenitore manca una protezione di cui si avverte la necessità. E non solo che un uovo che li protegga, quindi, ma anche che li custodisca, e l'uovo dal quale nascerà sempre qualche cosa di nuova generazione, fisica o spirituale, oppure sia fisica che spirituale. Allora, come si può chiamare questo uovo, questa protezione? Questa protezione è il matrimonio. È l'istituzione del matrimonio che c'è sempre stata, anche naturalmente parlando. Cioè c'è bisogno di un qualcosa che protegga l'unione tra marito e moglie. Non per un preconcetto, ma per la necessità proprio di una protezione. Quindi non per la paura di chissà quello che potrebbe succedere se non ci fosse questa protezione, ma per natura stessa. Cioè, proprio nell'io, nel dialogo tra l'io ed il tu che formano il noi, ci vuole qualcosa che tenga quest'unione e che faccia sì che uno si possa fidare dell'altro a prescindere da quelle che sono le proprie credenze, anche la propria cultura. Perché uno può nascere in una famiglia dove c'è un profondo senso della famiglia o in una famiglia dove non c'è questo profondo senso della famiglia, pur avendo magari delle idee di base identiche. Il problema qual è? Il problema è che se poi manca anche in chi non ha l'idea della famiglia come luogo, se manca questo uovo protettivo, anche l'amore tra i coniugi non ha la sicurezza e non ha quindi anche la capacità di correre un pericolo, di correre un rischio, che invece si corre. Si corre il rischio quando si dice di sì, si corre il rischio quando si decide di stare insieme, quando si decide di fare figli insieme, quando si decide insieme di costruire un futuro. E questa non è un'ideologia, ma è una necessità che se uno pensa all'esperienza propria, è una necessità esistenziale proprio. Cioè, se ciascuno di voi pensa alla propria vita e a quello che sta vivendo adesso e a quello che si propone di vivere domani, si rende conto che c'è bisogno di questo uovo. Cioè c'è bisogno di questa protezione e c'è bisogno anche, specialmente nella cultura di oggi, di sottolineare l'importanza di questo uovo. Perché non è non è un fatto di paura oppure un fatto di coraggio, cioè l'opposto della paura dire che non serve un istituto che protegga la famiglia. È un fatto che uno sente davvero dentro di sé. E se uno non pensiamoci, però sappiamo benissimo che in tutte le perversioni che ci sono anche dell'istituto matrimoniale, quello che nasce, quello che c'è, quello che si palpa con mano è proprio l'insicurezza, cioè la paura di dire ma domani io questa unione che sto vivendo, che fine farà? Cioè dove finirò io con questa persona che mi trovo al fianco, anche se sono magari marito e moglie, ma non convinti dell'istituto del matrimonio. Allora la felicità della coppia e della singola persona nella coppia e la fedeltà nella coppia, a prescindere dall'ideologia, hanno assoluto bisogno di tale protezione. Per cui anche l'obbedienza al matrimonio e l'obbedienza all'istituto matrimoniale, a prescindere, lo dico per l'ennesima volta, dal credo, dall'istituzione, eccetera, l'obbedienza implica libertà. Cioè, se io voglio essere davvero libero, devo sottomettermi all'obbedienza. Questo, esperienzialmente parlando, sappiamo che è così. E quindi il libertarismo che viene sbandierato da molti, in realtà è molto più coinvolgente, è molto più bloccante, è molto più vincolante. Mentre la libertà la si ha nell'obbedienza. Nell'obbedienza, cioè nel fatto di saper dipendere l'uno dall'altro. Non l'obbedienza succube. Questo anche dal punto di vista fisico. Cioè non l'obbedienza succube di chi si sente costretto ad obbedire, costretto a fare quello che vuole l'altro, perché se no chissà che cosa succede. Ma l'obbedienza d'amore, quindi l'obbedienza che riconosce la necessità dell'altro e quindi cerca di andare incontro alla necessità dell'altro, ottenendo così la piena libertà della coppia. Il matrimonio quindi diventa vincolo che svincola dalla schiavitù del proprio io. Cioè chi non vuole il vincolo, chi teme il vincolo, alla fine diventa schiavo dell'io. Non per egoismo, ma perché l'io diventa capriccioso se non si vincola. Cioè se non ha quel che abbiamo chiamato prima l'obbedienza. Se non c'è questo, l'io diventa schiavo di se stesso, ed è molto peggio essere schiavi di se stesso che essere schiavi di un partner. Nel senso che anche proprio la stessa vita, la stessa vita scema, cioè non ha più senso, perché io non vado più fuori di me cercando gli altri, ma rientro in me stesso e distruggendomi alla fine. Così come anche altri impegni stipulati, altri impegni in cui c'è il per sempre di mezzo, funzionano esattamente allo stesso modo. Questo anche quando nella coppia c'è il silenzio. Qui faccio una piccola parentesi. Come dicevamo prima del pieno, no? Cioè che la giornata deve essere piena, anche il dialogo di coppia si pensa sempre che debba essere pieno, cioè sempre parlare, oppure sempre ascoltare. Invece ci possono anche essere dei silenzi, dei momenti anche lunghi di silenzio, dove questo silenzio non ci dice che stiamo fallendo nel dialogo di coppia. Ma stiamo parlando ancora di più che con la voce, solo che il nostro dialogo in quel momento si basa sulla pausa. Cioè sulla pausa del sentire, sulla pausa del dire. Perché stiamo cercando, senza accorgercene, di sentire delle note più profonde che vengono appunto dal silenzio. Tutto questo che cosa porta? Ad una gioia molto profonda che non ha sempre bisogno quindi della superficialità per esprimersi, ossia quella gioia, quella serenità di fondo che non ha bisogno del fuoco d'artificio per esprimersi, che non ha bisogno dell'esteriorità per manifestarsi e che fa star bene la coppia perché l'uno si riposa nell'altra e lei si riposa in lui. Quindi anche momenti di silenzio sono preziosi. Ora faccio una parentesi per rispondere a una domanda precisa che mi avete rivolto, che è una domanda sulla depressione, non so chi me l'abbia fatta. E comunque, innanzitutto non possiamo e non dobbiamo banalizzare, ovviamente. Però, per semplificare un po', possiamo dire questo, che c'è uno stato depressivo patologico, cioè che è la depressione propriamente detta, che allora si riconosce attraverso determinati sintomi, che magari non si conoscono e li si affronta per la prima volta in se stesso piuttosto che nell'altro, oppure c'è un andare su e giù sinusoidale, quindi con su e giù, parafisiologico, cioè quasi normale. Sia nell'uno che nell'altro caso si possono prevenire sì e no. Sì e no. Cioè, ciò che facilita il dare un significato alle cose che facciamo e quindi accogliere gli avvenimenti all'interno di un discorso più ampio della propria vita facilita la non depressione. Per cui uno coglie il significato di alcuni fatti, anche tristi, che come può essere un lutto, o come può essere la perdita del lavoro, o un lavoro complesso, li coglie all'interno della sua vita, e all'interno della storia della sua vita, e hanno un impatto quindi criticabile, quindi un impatto che non distrugge. Chi invece coglie soltanto l'aspetto negativo senza storicizzarlo all'interno della sua vita può essere allora leso da questo impatto, può essere più difficile per lui rielaborare il lutto oppure rielaborare il fallimento professionale. Come si fa? In alcuni casi ci vuole lo specialista, cioè specialmente nel caso della depressione patologica il curarsi da sé non funziona di solito, cioè non posso dire adesso ci penso io, poi bevi un bicchiere di vino in più che intanto ti passa, no, non è quello il concetto. E allora ci vuole lo specialista e ci sono quindi degli specialisti che curano queste patologie. Nell'altro caso invece, oltre ad essere sicuri di non essere in una situazione patologica, bisogna dare una mano a se stessi o all'altra persona. Perché? Perché scopre che quel fatto, quell'episodio fa parte della sua vita, ma è solo un episodio della sua vita. Di solito faccio l'esempio della pellicola cinematografica. Se uno prende, non parlo dei DVD, parlo proprio della pellicola di celluloide. Se uno prende fotogramma per fotogramma e li mette uno davanti all'altro, vede tutto nero. Se invece uno prende i fotogrammi e li rimette uno per uno nella loro storia giusta, vede la storia del film. La stessa cosa succede per la depressione. Cioè quando uno vede tutto insieme e quando uno schiaccia la sua vita in un unico istante che gli sembra negativo, che gli sembra l'istante più brutto della sua vita, vede tutto solo nero. Se invece torna a vedere quel fatto all'interno della sua vita, della storia della sua vita, allora lo vede come un episodio che probabilmente in un futuro potrà addirittura trasformarsi in un talento. Quindi un fatto luttuoso, un fatto negativo, se uno lo coglie all'interno della sua storia, può diventare un talento per il domani. Questo è lo stesso stato depressivo, se a un certo punto, se uno se ne libera, che se uno ne guarisce può diventare un talento per il domani, nel senso che può dare quella sensibilità in più per cui uno poi comprende più facilmente gli altri e le problematiche degli altri, per esempio. Torniamo adesso al discorso d'inizio. Oggi come oggi mancano le basi per la costruzione di un'identità forte. Mi è stata fatta anche una domanda sull'identità. Perché mancano le basi? Perché si cerca di togliere le radici dell'identità propria, anche dell'identità fisica. E dove nasce l'identità della persona? Nasce da una genealogia biologica e da una genealogia relazionale, a partire proprio dall'identità del padre e della madre, che però non mi definisce per sempre. Cioè, anche la genealogia biologica e quella relazionale non mi definisce in quanto tale, ma nella libertà. Cioè, io mi riconosco padre perché ti ho generato, e tu ti riconosci figlio perché io ti ho generato. E questo ci dà l'identità, l'identità forte. Ma non solo, anche nel caso di una relazione sia tra marito e moglie, che poi anche tra parenti, come tra amici, come tra, è fondamentale il fatto di riconoscersi nella relazione. E allora nella relazione c'è anche l'identità intellettuale e l'identità psicologica, che ci deve anche essere nella coppia. Cioè, non basta fermarsi all'identità biologica, ma anche c'è un'identità anche di spirito che parte appunto dall'intelletto, che parte dalla psicologia della persona e che poi diventa un'identità spirituale. Come dicevamo prima, corpo, psiche, anima. Quindi un'unità biopsicospirituale che mi dà l'identità nella relazione. Nell'unicità, cioè ogni volto un mondo che si deve scoprire e che va scoperto e che si lascia scoprire. Per cui anche il bimbo, il suo volto si lascia scoprire. Ed è giusto che ci sia un certo tipo di pudore nelle persone e anche nel bambino, perché io non mi faccio scoprire da tutti e scelgo io che cosa fare a scoprire di me all'altra persona, così come gli altri cercano che cosa far scoprire di sé verso di me. E un nucleo dentro, dove c'è l'identità vera, non può essere toccato da nessuno. Cioè c'è un nucleo all'interno della persona, che sono l'io, che è l'io, e non può essere toccato da nessuno, ed è libero. E io sono libero di questa libertà e nella libertà del dono, quindi sono libero di far partecipe chi voglio io di parte del mio stesso. Non so se è tutto chiaro per adesso, più o meno. E ecco, questa scoperta dell'io, dell'altra persona, nasce da un desiderio, da cui si è attratti, e ognuno è una singolarità. E allora, se questa singolarità viene protetta sia da se stessa che anche dagli altri, quindi l'identità del bambino, se viene protetta dai genitori, allora non c'è spazio né per le gelosie né per le invidie. Qualche gelosia, qualche invidia verrà sempre fuori e ci sarà sempre, perché c'è sempre il confronto, c'è sempre la carezza vista data all'altro perché a me no, c'è sempre il voto a scuola migliore dell'altro, oppure quello che sia, insomma. Ed è anche fisiologico che ci siano. Però se i genitori sanno innanzitutto dentro di sé mantenere la sorpresa di fronte al figlio, e il figlio si rende conto che è una sorpresa, quindi che è accettato in quanto tale dai genitori, non ci saranno gelosie e non ci saranno complessi. E se saranno sorti delle gelosie e se saranno sorti dei complessi, possono essere rielaborati. I genitori non devono mai definire in se stessi i figli e le loro caratteristiche. Cioè, uno degli sbagli da evitare è proprio quello di definire e di scotomizzare dentro di me un figlio, dicendomi: questo figlio è fatto così, e io vado avanti così tetraedrico per tutta la vita. Col figlio che si sente dire da quando è piccolo a quando ha 50 anni, 60 anni, tu sei questo per me. No, non va bene questo, perché per coscienza personale e per coscienza anche nella vita sappiamo benissimo come la persona si sviluppa in modo imprevedibile, e sappiamo forse anche noi come ci siamo sviluppati in un modo che non prevedevamo. Oppure che se avessimo ascoltato quello che diceva lo zio piuttosto che il nonno, saremmo tutt'altra cosa di quello che siamo. Però se i genitori invece per comodità, per, chiamiamola per comodità affettiva, quindi se per comodità affettiva bloccano nel loro cuore, nella loro intelligenza, la crescita del figlio definendolo in un modo, c'è il pericolo che venga definito proprio così il figlio e quindi si blocca la possibilità di crescita e di sviluppo, e allora non c'è più neanche lo stupore sia da parte del genitore che da parte del figlio, perché anche il figlio crescendo deve stupirsi di sé e deve stupirsi del fatto che i suoi genitori si stupiscono di lui. È uno stupore vicendevole. E ecco, però sappiamo bene che le difficoltà sono tante e si incontrano, non possiamo far finta di non incontrarle: droga, amicizie sbagliate, pornografia, alcol. Queste sono solo alcune. La droga è facilissimo reperirla adesso, nel senso che la si trova dappertutto, nel senso che via internet è semplicissimo trovarla, e se uno cammina per certe zone delle grandi città c'è chi gliela offre, e nelle scuole c'è una capillarità per cui ci sono i micro pusher, cioè ci sono per ogni classe in alcune scuole c'è il compagno di classe che si fa dare le dosi per i suoi compagni, e poi ci sono, qualche volta ci sono le vetate della polizia con i cani antidroga per cui pigliano, però sapere che è facilissimo reperirla e non è difficile che un figlio l'assaggi. Che fare? Io direi prima di tutto non correre il pericolo di incuriosire il figlio nei confronti della droga, quindi non parlarne. In famiglia non parlarne se non quando è necessario, cioè quando il figlio ne parla, quando si sa che nella sua classe c'è un fatto per cui si ritiene necessario parlarne, perché si sa che gira droga nella sua scuola, per esempio. E se uno sospetta o se uno coglie il figlio che si droga, come reagire? Col dialogo, cioè col dialogo non nel senso di dire fai bene, nel senso di dire fai male, ma proprio cercando di comprendere cos'è che lo ha portato ad assaggiare la droga, dialogando e poi cercando di fargli capire che è un male per lui, cioè che non è una cosa, cioè che non c'è una spiegazione umana per cui lui debba consumare droga. Perché? Perché l'emozione che gli dà la droga è una cosa che poi finisce, poi lui sta peggio. Quindi nel momento in cui uno la usa, sì, allora dirgli le possibili conseguenze, perché uno che incomincia con una droga leggera, poi dopo non gli basta, vuole quella pesante, e poi dopo, e queste droghe fanno danni. Molte solo dal punto di vista psicologico, altre invece anche dal punto di vista fisico. Amicizie sbagliate fanno paura, perché uno non sa dove possa condurre, però ci possono dire questo, che ognuno degli elementi, la droga, l'amicizia sbagliata, la pornografia, l'alcol, in realtà significa una fuga da se stessi. Cioè sono tutti degli elementi che prevedono il viaggio. Il viaggio nella droga, il viaggio nell'amicizia sbagliata, il viaggio nella pornografia, il viaggio nell'alcol. E quindi vuol dire fuggire da se stessi. E quindi vuol dire paura di sé. E quindi denotano tutte una fragilità interiore forte. La pornografia, anche la pornografia oggi come oggi è facilissimo reperirla, perché basta avere un telefonino col collegamento a internet che la si proprio, così come un tablet oppure un semplice computer. E che fare allora? Chiudere il computer, mettere... Ci sono dei programmi che salvaguardano dalla pornografia. Però io quello che volevo suggerire oggi è quello di è un po' il lavoro complesso, difficile, però efficace, di accendere l'intelligenza contro la noia intellettuale. Cioè, accendere l'intelligenza sia propria che dei figli contro quella che io definisco noia intellettuale. Cioè, questa, il senso di pesantezza che può venire da non essere abituati, non essere più non essere più capaci, per esempio, di leggere, per esempio di pensare senza dover cambiare pensiero ogni secondo, che è quello che si fa quando uno va su internet. Su internet uno clicca, poi clicca, clicca, clicca e cambia pensiero in continuazione. Invece il fatto di percepire, di avere un pensiero che ha una sua connessione logica, quindi il pensiero successivo che si collega col pensiero precedente, si sta perdendo come capacità. E viene noia. Allora, se viene noia intellettuale, allora io cerco un qualcosa che mi ecciti intellettualmente e che mi dia una consolazione, però sarà una consolazione macabra. Cioè sarà una consolazione che alla fine mi porterà a una non consolazione e quindi ad una ricerca ancora maggiore di un'altra consolazione. Per cui, come nella droga, la droga non basta più a un certo punto, così anche nell'alcol, l'alcol non basta più, così nella pornografia, la pornografia non basta più. Però occhio, non conviene spegnere il computer, conviene appunto accendere l'intelligenza. Cioè, se io punto a spegnere il computer, poi è facile che ci sia il tablet dell'amico. E se non c'è quello dell'amico, c'è quello del vicino. E se spengo il computer, allora dice, ma come allora? E rimane il desiderio di vedere certe cose. Se invece accendo l'intelligenza prende il posto di queste cose e si proietta in storie vere. Allora io spezzo una lancia in favore della lettura, di leggere, e anche per i bambini piccoli piccoli, che poi quando crescono, la lettura di fiabe, dove c'è una circolarità, cioè dove c'è l'inizio della fiaba con la fine della fiaba, e dove c'è tutta una serie di difficoltà che l'eroe deve affrontare. Allora uno si immedesima, il bambino si immedesima nelle difficoltà, e anche le difficoltà che l'eroe o chi sia deve affrontare diventano allora un significato per la noia intellettuale. Per cui io mi annoio, sì, però so che dopo, che se tengo duro e se non cerco la consolazione, possiamo chiamarla macabra, dopo avrò un premio da questo, cioè sarò premiato per questo. Ed è interessante anche, se uno si vuole un po' cimentare, la costruzione di fiabe insieme ai figli, cioè costruire con i figli delle storie con un inizio e con una fine. Non importa che siano lunghe, complicate, che non finiscano più, ma che abbiano l'inizio e che abbiano la fine, in maniera tale che la ciclicità, nella ciclicità del racconto, il bambino possa riconoscere la ciclicità delle sue giornate. Sappiamo che il bimbo ha una percezione del tempo diversa dalla nostra, cioè lo percepisce qualche volta lunghissimo, interminabile. Quando i bimbi vanno a messa, dicono che la messa sia interminabile, perché non finisca più, perché invece non è così. E altri momenti che invece finiscono troppo presto. Poi crescendo uno si rende conto che lo spazio-tempo è sempre lo stesso. E, ecco, nella favolistica, nel fantasy, c'è questa ciclicità, per cui diventa comprensibile come posso aspettare per avere il premio che verrà dopo. Quindi insegnare ad accettare la fatica. La fatica di pensare, la fatica di leggere e la fatica anche di vincersi. Cioè la fatica, che è una cosa che manca oggi, di andare contro se stessi quando occorre. Io posso andare contro me stesso per una cosa stupida, allora non vale la pena. Però il bambino può imparare che andare contro se stessi per un qualcosa che vale la pena, che per un qualcosa di più, si può fare, ed è fattibile proprio. È fattibile se vede nei genitori l'esempio in questo. E allora anche papà e mamma devono essere capaci di dire io so andare oltre quello che voglio in questo momento. Allora anche il fatto, per esempio, delle piccolissime cose, però la passeggiata in montagna dove si fa fatica, il bimbo vede che mamma e che papà ce la mettono tutta anche se stanno facendo fatica, e poi si arriva alla meta e allora capisce che l'arrivare alla meta dà soddisfazione perché li vede contenti dopo. La fatica di leggere perché di fatto si legge sempre di meno, e questo non fa bene perché le cellule del cervello non si abituano più alla lettura, e allora diventa difficile leggere dopo, e diventa difficile anche lo studio, perché lo studio si imposta sulla lettura. E uno può andare bene alle medie, poi al liceo avere qualche problema, se poi fa l'università e che non è abituato a leggere avrà dei blocchi. Perché? Perché leggere implica fatica e uno deve incominciare il libro e poi finirlo, quindi anche qua si entra nella ciclicità e c'è bisogno di sapere che uno può finire di leggere il libro. E sempre nel rapporto genitori-figli, un aspetto importante è sapere tornare alla gioia della festa. Questo è un aspetto nuovo forse, bisogna che torniamo ad imparare e ad insegnare e a vivere innanzitutto la gioia della festa, cioè come lo star bene insieme sia bello e come sia bello fare festa insieme. Con i figli vuol dire, ma quel figlio, io ho un figlio problematico. Sì, ma il figlio problematico deve sapere che nella famiglia si può fare festa anche se lui è problematico. Cioè, che non è che il fatto che lui è problematico allora blocca tutta la famiglia, se no il suo problema diventa insormontabile per lui stesso. Un figlio che va male a scuola, allora non è che dobbiamo bocciare il figlio, né dobbiamo bocciare la famiglia perché il figlio va male a scuola. Allora non è che quando torna a casa la prima domanda è come è andata a scuola, perché se no non vuole più tornare a casa. E non è che quando c'è una festa con i parenti si parla solo di che lui sta andando male a scuola, non c'è problema. Bisogna ricominciare proprio a fare festa nel senso vero, proprio nella famiglia. E quindi anche quando ci sono dei momenti difficili o dei momenti dove uno tenderebbe a vedere tutto, come dicevamo prima, un fotogramma dietro l'altro per cui tutto nero, svolgere invece la storia della famiglia facendo festa. Da qui l'importanza allora dei compleanni, anche dei bambini piccoli che si ricordano poi, dei compleanni dei genitori che vanno festeggiati, e anche delle feste che si possono fare insieme anche per delle ricorrenze più semplici. Il fatto di stare bene insieme, cioè stiamo bene insieme, ecco. Ti facciamo capire che anche se hai quel problema stiamo bene insieme. Cioè che anche se abbiamo scoperto che ti sei fatto di cocaina, però stiamo bene insieme con te lo stesso, siamo contenti di stare con te. Anche se ho beccato la rivista pornografica, che poi non c'è più la rivista ma c'è l'iPad, e io con te ci sto bene lo stesso, cioè sono contento di te. Certo vorrei che tu correggessi quella cosa, però sono contento di te lo stesso. Perché tu per me sei importante. E allora siamo bene insieme. A proposito di questo, attenzione che qualche volta quando uno tira le somme, o per fatti che accadono, o perché gli viene voglia di tirare le somme, c'è una constatazione di fallimento. Cioè, uno dice, sono 30 anni che siamo insieme, guarda i nostri figli, e poi... E allora siamo falliti, cioè abbiamo sbagliato tutto. Oppure ci si rende conto che nella coppia c'è un po' di muffa, abbiamo sbagliato tutto. E allora depressione appunto, oppure non voglia di cambiare, oppure paura, oppure stiamo insieme lo stesso ma non ci separiamo, perché però se fosse per ci separeremmo. Ecco, sapere che no, che la constatazione di fallimento è l'inizio tante volte. Cioè il fallimento innanzitutto non c'è, quindi non va buttato via il bambino con l'acqua sporca, ma vanno riconosciute tutte le cose buone che si sono fatte insieme, anche se sono poche queste cose buone, ma vanno riconosciute, vanno riportate alla coscienza della coppia. E puoi sapere che anche l'aver fallito in quell'ambito può essere un talento per il domani, come dicevamo prima del talento del fallimento, no? Cioè dello stato depressivo che può essere un talento per il domani. Anche la constatazione di aver sbagliato in qualcosa, e chi non sbaglia qualcosa, può essere davvero un talento, non per vedere tutto rosa, cioè non è che stiamo dicendo che tutto è bello, no. Però la constatazione di un qualcosa che non va può essere davvero un inizio. Volevo leggere adesso una frase soltanto dell'amore e Letizia, una semplice frase proprio, cioè due o tre frasi, proprio sulla formazione dei figli. Anche se i genitori hanno bisogno della scuola per assicurare un'istruzione di base ai propri figli, non possono mai delegare completamente la loro formazione morale. Cioè, io mi fido della scuola, qui siamo in una scuola, mi fido della scuola, però chi educa sono io come genitore, non la scuola. Così come il figlio rende conto a me, genitore, non alla scuola che poi rende conto a me. La scuola diventa strumentale per la famiglia. Lo sviluppo affettivo ed etico di una persona richiede un'esperienza fondamentale. Credere che i propri genitori sono degni di fiducia. Questo è bellissimo. Cioè, lo sviluppo affettivo, lo sviluppo etico si basa sul credere, cioè sul credere del bambino che papà e che mamma sono degni di fiducia. Cioè, vuol dire, io mi fido dei miei genitori perché sono perfetti, no, assolutamente, non perché sono perfetti, ma mi fido di loro perché in lui trovo mio padre e in lei trovo mia madre. E allora mi fido di loro. Questo costituisce una responsabilità educativa. Con l'affetto e la testimonianza generare fiducia nei figli, ispirare in essi un amorevole rispetto. Quando un figlio non sente più di essere prezioso per i suoi genitori, nonostante sia imperfetto, o non percepisce che loro nutrono una preoccupazione sincera per lui, questo crea ferite profonde che causano molte difficoltà nella sua maturazione. Questa assenza, questo abbandono affettivo, provoca un dolore più profondo di un'eventuale correzione che potrebbe ricevere per una cattiva azione. Cioè, quando un figlio non sente più di essere prezioso per i suoi genitori, nonostante sia imperfetto. Quindi, è chiaro che il figlio non è perfetto, e lui capisce di non essere perfetto. Sia quando è piccolo piccolo, perché non sa fare le cose, che quando cresce, perché sbaglia, perché è andata male l'interrogazione. Perché... Però se continua a percepire di essere prezioso per i genitori, allora si correggerà perché vorrà bene a se stesso. Se per i genitori non è più prezioso, allora non è più prezioso neanche per se stesso, e allora si lascia andare, e allora vuole fuggire da se stesso perché non crede più in se stesso, e allora droga, amicizie sbagliate, pornografia, alcol, eccetera. Cioè, specialmente nella formazione di crescita, il bambino pensa di sé quello che i due genitori pensano di lui. E se un genitore dice al figlio stupido e continua a dirgli stupido, il figlio diventa davvero stupido. Mentre se lo incoraggia e se lo sprona, se gli dà fiducia, allora il figlio fiorisce. Quindi anche il discorso delle gelosie, se i genitori credono nei figli e il figlio percepisce che i genitori credono in lui, quelle gelosie che non possono evitarsi spariscono, cioè si squagliano come le persone. Quindi quello che secondo me occorre è anche avere una visione più ampia, cioè l'ottimismo, no? Con cui io spero anche che si esca da questo incontro, non deve essere l'ottimismo superficiale di chi vede tutto bello, perché non è così. Però è quell'ottimismo di chi dice no, si può fare, cioè si può costruire. se io mi decido a costruire innanzitutto me stesso, quindi a dare un'impronta forte a me stesso, alla coppia, allora i figli, cioè se uno vuole essere buon padre deve essere buon marito e se lei vuole essere buona madre deve essere buona moglie, perché i figli poi si specchiano nella coppia. E uno dei compiti dei genitori è anche quello di rendere desiderabile il bene, cioè che il bene anche quando costa però sia desiderabile, non sia una cosa da fuggire, meglio il male. Al male siamo tutti attratti, tutti, no, ma io no perché ho sempre voluto il bene, no, e siamo sempre tutti attratti dal male, però il bene lo si può rendere desiderabile. Così come si può rendere avvincente la fedeltà coniugale, cioè il vero gallo non è quello che ha tante donne, ma è quello che ha un'unica donna, perché chi ha tante partner è sempre lo stesso, è sempre uguale, mentre chi ha una donna, mentre chi ha una sola donna deve rivivificare, deve rifantasizzare sempre l'amore per lei, così come la donna per l'uomo, anche chiaramente. Quindi la vera fantasia d'amore sia nella fedeltà e non nell'infedeltà, anche se apparentemente sembra il contrario, ma non è così dal punto di vista oggettivo, cioè l'amore infedele è sempre uguale, l'amore fedele invece deve rinnovarsi, l'amore fedele deve avere fantasia, anche fantasia materiale, nel senso di anche di trovare quei piccoli trucchetti che rendono bello tornare a casa. L'abbiamo visto prima per i figli, cioè non chiedere subito come è andata a scuola, ma questo vale anche tra coniugi, cioè lui torna a casa stanco morto e gli faccio trovare una fetta di salame, oppure gli faccio trovare un bicchiere di vino, oppure, cioè non è che sono lì, la farata senz'altro, però così come lui quando torna lei a casa, una piccola sorpresa, quello che sia, insomma, quella fantasia. Ecco, io direi questo, adesso se ci sono domande sono disponibile. Mi delude perché appunto non so, scopro che si droga o in quel momento non spezza qualcosa dentro di me, il mio sentimento per lui. E il fatto di fargli sentire comunque che lo si accetta e che si vuole far festa con lui perché appunto gli si vuole bene comunque, e non è sempre così naturale, cioè non è sempre così vero. Allora lì bisogna sforzarsi. Si può fingere, sì. Si può fingere? Non è sbagliato, sì. Cioè, la sincerità non è quando io dico io sono sincero quando ti dico quello che penso di te. Quella non è sincerità. Questo diventa cattiveria. Perché non è che io, perché penso di te questo, allora voglio essere limpido e trasparente con te. Qualche volta devo anche fingere. E sono sincero se fingo. Perché la volontà mi spinge proprio a dimostrarti che io ti voglio bene lo stesso. Anche se dentro mi hai fatto attorcigliare lo stomaco, anche se mi viene l'ulcero perché so che studi poco. Però se lui si sente bastonato, non torna. Cioè se uno si sente bastonato, questo anche per esperienza posso dirlo, è difficile che poi dopo ci sia un cambiamento come uno vorrebbe. Per cui si fa la fatica doppia. Allora tanto vale fingere, che poi non è una finzione, è un dono. Cioè, diciamo, si fa dono di sé in un modo diverso, non per quello che si è, proprio che si sente dentro, ma per quello che uno vuole essere per l'altra persona. Cioè nell'ambito dei rapporti familiari uno non è e deve essere sincero, sì, deve essere stretto, però deve anche essere per l'altra persona, e allora io voglio essere per l'altra persona anche quello che l'altra persona si aspetta che io sia, non solo quello che io per sincerità sono, perché qui poi ci sono tantissime derive. Allora posso fingere, è una finzione però intelligente, cioè una finzione del nascondimento, dello struzzo. Cioè certo, poi dopo io gli dico anche, colgo il momento giusto per dirgli quello che poi sento dentro, no? Tante volte è anche un silenzio, un minuto, cioè una frazione di silenzio dice molto di più. Qua Francesco lo dice molto bene, cioè è quasi più, fa quasi meglio un rimprovero duro che il fatto di non sentirsi accettati ed essere preziosi per quello che si è. Chiaro, uno non può dirgli, non può dire a un figlio hai distrutto tutto quello che pensavo di te, perché questa è una mazzata da cui non si rialza più, per cui se uno già fa uso di coca ne fa sempre più uso di coca, perché deve fuggire ancora di più da se stesso perché si spaventa. Invece bisogna far sì che il figlio non si spaventi di se stesso, così come la mamma e il papà non devono spaventarsi di se stessi quando sbagliano. O quando viene quella sensazione che vedevamo di fallimento. E ci sono certi momenti nella vita di coppia in cui si ha l'idea del fallimento, però è lì che bisogna dare il colpo di reni e avanti. Posso chiedere un po'? Sì. Nel rapporto, come diceva prima, nei confronti del figlio che sbaglia, che fa qualcosa che è negativo, dobbiamo sempre comunque salvare la comunicazione, rispettarlo, voglio bene, dimostrargli che questo non incide sul fatto che gli vogliamo bene. Questo è il rapporto genitore-figlio e nei confronti degli altri fratelli, perché poi c'è un fenomeno di esempio. Allora i fratelli dicono, e tu, detto al papà, non dici niente? Capita, non reagisci, non castighi? Allora come si possono contemperare le due? Parlando. Cioè parlando anche con il singolo figlio proprio. E allora uno dice, ma io parlo con tutti, sì, però con ciascuno bisogna metterlo in un modo diverso. Allora c'è il figlio che basta che gli faccia un sorriso e capisce subito la situazione familiare, anche se è piccolo, magari però capisce. C'è il figlio invece che ha bisogno della spiegazione. Allora, perché a me che ho preso 10 non dici niente, a lui che ha preso, cioè tutte queste cose, no? E bisogna spiegargli perché, cioè c'è una modulazione anche nel rapporto con il singolo figlio che si differenzia. E questo rende la famiglia molto ricca, perché se uno si comporta allo stesso modo con tutti i figli, allora diventa monotono. Invece bisogna che con ciascuno ci sia una differenziazione, anche nella responsabilizzazione, per cui uno dice, ma quello viene viziato da voi. Beh, viene viziato fino a un certo punto, allora gli si può spiegare. Perché lui ha bisogno di questo in questo momento, mentre tu no. Cioè tu sei più grande, tu sei più autonomo, mentre lui ha bisogno ancora che gli facciamo, che gli diamo, che gli compriamo il libro noi, oppure che gli facciamo questo regalo, che sia, eccetera. Ma come con me l'anno scorso ti sei arrabbiato perché ho preso 5, lui ha preso 4, adesso non gli fate niente. Non è che non gli facciamo niente. È che lui col 4, cioè, capisce benissimo che quindi non ha bisogno del... Tu col 5 non capivi, non bisogna dirgli così chiaramente, si casca nella cosa opposta. Tu hai domanda, il fatto che questo tipo di atteggiamento, questo tipo di accoglienza, questo tipo di capire la situazione richiede tempo. E richiede... esserci, cioè tante volte non si è lì, oppure succede classica ora di cena, ora di andare a letto, cioè ora in cui ci sono altri, come tra altri bambini, per cui non è sempre facile mollare tutto e intervenire, prima domanda. E la seconda domanda è il fatto che questo atteggiamento appunto di comprensione di come si sposa col castigo, o comunque con la punizione, o comunque con il fatto di dire. Te l'ho detto una volta, cioè, c'è un momento in cui c'è il. Si sposa con l'identità. Cioè io proprio perché so di essere tuo padre, allora ti posso dire questo. E tu sei mio figlio, e tu sai che proprio perché sei mio figlio puoi sentirti dire questo da me che sono tuo padre. Io che sono tua madre ti dico questo. Cioè, quindi proprio perché sono tua madre, non perché non mi interessa niente di te. ma proprio in quanto genitori noi ti diciamo questo. E allora ci vuole l'identità della madre e l'identità del padre, che deve essere differenziata. Cioè, adesso con l'idea del gender hanno un gran dire, però nell'educazione il ruolo paterno dal ruolo materno si differenzia parecchio e ci vogliono tutte e due, perché la madre deve essere quella che accompagna, quella che dà, quella che chiama, quello che chiama alla vita, quindi quella che poi dà gli ideali grandi, quella che il padre deve essere quello che sa mettere questi ideali nella realtà della vita. E questo anche da un punto di vista materiale. Cioè il bambino piccolo ha bisogno delle mani della mamma e, deve, e vuole sentirsi avvolto dalle mani della mamma. Se il papà lo prende in braccio capisce che non è la mamma, perché sono delle mani più robuste, sono delle mani più... c'è una presa diversa che gli va bene, però si è alternata con quella della mamma. Per esempio il discorso dei pannolini, io dico mi fa piacere la madre che vuole che anche il padre mette il pannolino al figlio, però non 6 volte il padre, 1 volta la madre, 6 volte la madre, 1 volta il figlio, il padre, perché il bimbo ha bisogno proprio delle mani materne. Poi se la mamma non può, deve farlo il suo papà, questo è chiaro, però non è che deve essere, allora anche tu devi fare da mamma, no, lui è il papà. Il tempo è una cosa fondamentale, nel senso che ci vuole tempo. Cioè tempo, non tanto tempo, 2 ore, ma tempo proprio anche giorni, settimane, mesi, anni. Per cui uno vede crescere il figlio giorno per giorno. E poi ogni figlio ha bisogno del suo tempo. Non è vero che basta la qualità del tempo, questa è una menzogna. Cioè ci vuole anche la giusta quantità. Per uno bastano 3 secondi, e quei 3 secondi dice tutto. L'altro in 3 ore non dice quello che ha detto in 1 secondo quell'altro. Ieri sono andato... E hanno i tempi diversi, quindi vanno ascoltati per quello che sono loro. Poi c'è la vita che complica tutto, perché uno deve correre avanti e indietro e si complica tutto, però l'idea fondamentale deve essere quella. Così come nella punizione ci vuole anche un po' di... cioè ci vuole anche qualche volta, perché quando c'è il capriccio per il capriccio, lì ci vuole un po' di severità. Cioè l'accoglienza, il capire, il fatto che il figlio sia sempre prezioso per noi vuol dire anche che voglio mantenerlo prezioso, per cui sono severo quando vedo che lui si sta buttando via. E nel bambino piccolo questo, che non si butta via chiaramente, però nel bambino piccolo il capriccio per il capriccio è una cosa in cui lui si butta via. Così come un domani sarà la mancanza di studio perché non ho voglia di studiare. Ed è quello che prima era il capriccio per il capriccio, cioè uno non studia perché non studia. E allora lì sì che si interviene, e lì bisogna anche essere giustamente severi, cioè non andare al di là. Però ecco, dopo la severità, che lui capisca che effettivamente non è diverso rispetto a prima. Cioè che il 3 che ha preso nella versione di Greco non gli cambia l'affetto dei suoi genitori, nella stima che i suoi genitori hanno nei suoi confronti. Certo che si dice studia, però senza accompagnare questo da sei un caprone, ma ecco, anche lì avevo un po' di pazienza in più. I titoli servono o no? Cioè le parolacce al figlio non servono mai, anche se uno sbaglia, perché, però anche se vengono distinto qualche volta, però non servono mai e non bisogna usarli. Scusi, sì. Come ci si può regolare con la diversa sensibilità che possono avere 2 figli e la stessa sensibilità che possono avere tra loro i genitori? Mi viene da pensare un padre che scopre il figlio che dicendo che si droga, la prima reazione che può avere è mettergli le mani addosso. La madre, mi viene più naturale pensare che voglia dialogare con lui. Sì. Come si fa a capire qual è l'equilibrio tra le 2 posizioni? L'importante è che mamma e papà vadano nella stessa direzione. Cioè, però appunto il fratello minore che assiste a un episodio simile dice magari aveva ragione il papà. Ma perché il fratello minore deve sapere che il fratello maggiore si droga? Perché lo può scoprire. Ok, lo scopre. Nella vita di famiglia lo può scoprire. Lo scopre, si spiega che cos'è la droga al fratello minore, separatamente dal fratello maggiore. E al fratello maggiore, cioè sia papà che mamma devono avere la stessa direzione, nel senso lo stesso metodo, perché il figlio deve vedere, non può giocare di sponda con uno dei due, cioè deve proprio avere un'indicazione unica, perché se gioca di sponda non si finisce più. Questo finché sono capricci, cioè finché dice vuole la cicca, la mamma ha detto di no, allora va dal papà che non sa che la mamma gli ha detto di no, e il papà gli dà la cicca, e allora la mamma si incavola e fa bene ad incavolarsi la mamma. E è un conto, ma quando c'è poi la droga di mezzo è tutto un altro conto, ed è più complesso. Allora lì ci vuole che papà che mamma, per esempio, sappiano dove se l'è procurata, sappiano perché ne fa uso, cioè si facciano delle domande prima di intervenire sul figlio. Cioè cos'è che ha spinto, che può essere dalla cosa più banale, cioè il fatto di aver provato proprio, al fatto invece più complesso di un problema che ha dentro e che non tira fuori con nessuno. Allora, se io mi imbestialisco con lui e non faccio altro, questo si chiude ancora di più. Quindi, torniamo al discorso della fuga, fugge ancora di più, si droga ancora di più. Allora, il dialogo non è una debolezza. Il dialogo diventa una fortezza per i genitori, perché loro nel dialogo sanno dare dei paletti molto precisi. Ci vogliono paletti nell'educazione, eh? Cioè bisogna che i figli abbiano dei paletti forti anche. Una cosa non ho capito prima, quando parlava della droga, no? Sì. Diceva prima che è molto facile, ormai è diffuso dappertutto, è molto facile procurarsi. D'altra parte non bisogna parlare ai figli, se no quando magari la imposta, no? Bisogna... così diffusa, davvero, mai... perché c'è la curiosità, ma è quasi impossibile che non la incontrino, cioè se non almeno hanno uso loro avranno un compagno, allora, uno spera sempre che non la incontrino, sì, direttamente, ma avranno un amico sicuramente, può essere, cioè il 99% hanno un amico, e da qui deriva l'importanza di conoscere gli amici dei figli, non il controllo sui figli, cioè non il controllo sul figlio eccetera, però conoscere questo sì, conoscere i figli, gli amici dei figli. Sì, ma non ho capito perché non parlate. Perché spesso si stuzzica la curiosità, e la curiosità porta poi a voler provare la cosa. E se io non ho una struttura che già mi dice, cioè che già mi porta ad una critica personale, ma sono in compagnia, è facilissimo caderci e poi cadere nella continuità anche. Posso? Sì. Perché ci sono anche canzoni, con tutte queste canzoni, sì, che si sentono ovunque, col doppio senso, sì, che cioè io non so, avrò sbagliato, ma mi viene in mente, però ad esempio io glielo spiegavo che si trattava di droga, quindi non era una canzone che andava a raccontare, e l'argomento è venuto fuori e l'ho spiegato, cioè... non è che è possibile, non è che non bisogna parlare in senso assoluto. Cioè non è che se uno ne parla sbaglia, però bisogna parlare in maniera tale da non creare la curiosità. Diciamo così, ecco. Cioè, io ne posso parlare, anzi qualche volta, come dice giustamente la signora, devo parlarne, però è un parlarne che mi deve dire tutto. Cioè nel senso che mi deve dare il limite oltre al quale io capisco che sto facendo davvero qualcosa contro di me. Per esempio, scusate adesso, non è che noi dobbiamo sapere tutto quello che sentono nelle cuffie i nostri figli, però saperne il senso sì. Cioè noi dobbiamo ascoltare tutte le canzoni. Adesso qua siamo più o meno tutti della generazione di Vasco. Vasco Rossi è più super giù, insomma. Vasco Rossi ha scritto delle canzoni che sono delle poesie d'amore bellissime, e ha scritto delle canzoni che sono invece un'incitazione alla droga. E sappiamo che lui è uno che, cioè quando nelle interviste dice è ora di piantarla, ha un doppio senso abbastanza notevole, cioè nel senso che è ora di piantare la cannabis in casa. E quindi non è piantarla nel senso di smetterla. Allora ci sono però delle canzoni che sono bellissime. Come si fa? Non è che si dice non puoi ascoltare Vasco Rossi perché ci sono delle canzoni, però se un figlio chiede ma scusa che cos'è questa Coca-Cola, e uno dice guarda che non è proprio Coca-Cola ma è cocaina, cioè intende anche la cocaina, e gli si spiega, guarda, c'è un doppio senso, da bisogna stare attenti, il figlio capisce. Senza andare poi nell'esagerazione di chi vuole venire con le canzoni di altri, anche chissà che cosa, no? Perché qualche volta ci sono anche dei fantasmi che non esistono, che non stanno nel cielo del terra. Però sapere che tipo di testi ascoltano i figli, questo sì. Una cosa, a proposito del controllo comunque dell'informarsi di quello che fanno, di quello che ascoltano, come porsi nei confronti di internet e soprattutto dei social network, che sempre di più insomma costituiscono un mondo in cui i giovani trovano moltissimo interesse. Cioè, come spiegare, anche quando, cioè, quando, cioè, prima si diceva sapere che cosa ascoltano, almeno come genere, come nei social network. Ancora peggio. Infatti. Ancora peggio. E lì è quasi impossibile. Cioè lì uno non è che deve arrendersi, però per questo dicevo prima di accendere l'intelligenza e di non spegnere il computer, cioè di riuscire a far sì che le persone, che i figli abbiano un minimo di idea. Poi loro sono liberi, cioè bisogna anche fare il conto con la libertà del figlio e tenere presente che da figli splendidi possono venire fuori dei figli, adesso sto facendo delle esagerazioni, dei paradossi, cioè da un genitore splendido può uscire un figlio disastrato, da un genitore disastrato un figlio splendido, con tutto ciò che l'arcobaleno tra queste due cose, tra questi due estremi c'è. Allora, internet, Facebook, eccetera, io penso che qualche volta una cosa che si può fare è relativizzare tutto questo, cioè non rendere, almeno come idea, che loro abbiano l'idea che per noi non sono indispensabili. Perché sennò è indispensabile essere sempre collegati. E stanno su anche fino alle 12, fino a una di notte, a fare messaggi, eccetera. Ecco, far capire che non è indispensabile. Cioè che le chiacchiere su Facebook sono come le chiacchiere da osteria, cioè dove tutti dicono la loro, però senza senso. Poi ci può anche essere l'utilizzo buono di Facebook, anzi c'è. Però ci si scambia cose, pareri, cose che servono, informazioni, avvisi, no? E così anche come con le mail, così come anche con Twitter, eccetera. Però fa capire che sono delle cose relative, non assolute. Per cui non c'è bisogno assoluto dell'utilizzo. E ci possono anche essere delle regole che possono tornare utili in qualche caso. Tipo quando si è a tavola non si porta il cellulare in tavola, però non sempre questo, perché poi sono le famiglie in cui si mette il cellulare in corridoio, suona tutto il corridoio, quindi poi la gente si alza e è un caos. Per cui anche a seconda di quante telefonate si ricevono, però mantenere un minimo di protezione nella famiglia dai telefonini, questo non è sbagliato. Poi ci sono circostanze in cui se uno aspetta una telefonata di lavoro importante, chiaro che ce l'ha il suo cellulare dietro. Così però il figlio capisce che il cellulare in quella circostanza lo usa per questioni importanti. Cioè non dà un valore assoluto e una necessità dell'utilizzo delle social. Scusi. All'inizio parlavo dell'identità che è stata richiamata anche poc'anzi, sì. E ha sottolineato che l'identità si conforma, se non si sviluppa, in relazione con gli altri. Anche in relazione con gli altri? No, ma si sviluppa anche in relazione con gli altri. Anche in relazione. Sì. Ma soprattutto dove si sviluppa l'identità? Io sarei tentato di dire, pensando ieri sera che parlavamo con mia moglie, c'è sempre in qualsiasi trasmissione il caso pietoso da aiutare l'associazione che fa, positivo in questo senso, ma probabilmente mi fa anche capire che l'identità, se in relazione agli altri, e gli altri sono la stragrande maggioranza, quello che è stato detto finora, cioè che ci portano in piedi da un'altra parte, noi stessi da un'altra parte, l'identità nasce spiazzata, come a finire spiazzata. Io credo che l'identità, nella riflessione che sto ascoltando, vada fatta su un'ancora sicura. Sì. E quell'ancora sicura, sicuramente sono i genitori che devono testimoniare qualcosa di straordinario perché il figlio non possa identificarsi con i genitori, non si identifica con i genitori, ma devi dire con un'ancora sicura che batta tutti quanti gli altri. E quest'ancora non può essere che Dio, ma in un certo modo i genitori ovviamente devono cercare di vivere questo aspetto. Ma dobbiamo anche decifrarlo, secondo me, pensando nella famiglia, nel prossimo, cioè se i genitori, lo dico a me che non lo faccio, riuscissero a sperimentare, a vivere delle esperienze come quelle esperienziali, con un prossimo che deve essere aiutato ad esprimere tutta la propria potenzialità, come ha fatto Don Benzi, come ha fatto Don Bosco, come ha fatto tutti quelli che conosciamo. Io credo che i ragazzi vengano indietro, cioè si costruiscono un'identità così forte che poi non è fatta in relazione a tutto quello che ci sta attorno, perché c'è purtroppo, e lei l'ha precisato, avevo capito un po' male, il pericolo che se l'identità si fa in relazione con gli altri, con chi io trovo, vado a finire spiazzato io stesso, non soltanto i miei figli. Come possiamo aiutare? Dovremmo inventarci delle esperienze, che so, la ronda della carità, un'esperienza in missione, cioè dove c'è il prossimo che diventa me stesso, insomma. Sì. Molte volte quando vengono da me pazienti, specialmente giovani, bloccati nel senso che non vanno avanti né nello successo, questi giovani, cioè, e purtroppo ce ne sono oggi come oggi, e che non fanno, cioè che fanno tante cose ma in realtà non fanno niente, e sono esistenzialmente bloccati. Cioè non vanno avanti negli studi, non vanno avanti, non cercano lavoro, ma non perché siano cattivi, perché sono proprio bloccati, cioè non hanno, per colpa di, cioè se uno vuole poi vedere le colpe profonde, ci sono delle, però per colpa di nessuno in realtà. Allora il fatto di avvicinarli piano piano a pensare di più agli altri, allora ad un'occupazione anche di volontariato, è una cosa che sblocca molto. Anche dal punto di vista intellettuale. Ciao. Cioè, quando... allora, tornando al discorso dell'identità, è chiaro che io l'identità la formo in famiglia, però l'identità vuol dire anche che io allora sono qualcuno per gli altri. Quindi è un'identità per l'altro. E allora torna il discorso che stava facendo molto bene lei adesso. Cioè io quindi non devo fare l'esperienza bella per me, e anche la bellezza della festa in famiglia non deve essere fatta perché noi siamo buoni e gli altri sono tutti cattivi, ma deve essere un'esperienza positiva che mi proietta poi all'esterno della famiglia. E allora l'identità del figlio nasce nella famiglia, però poi deve svilupparsi fuori della famiglia. Perché lui deve avere talmente sicurezza in se stesso che si sente coraggioso per affrontare poi l'esterno. Cioè così sicuro di sé che affronta l'esterno. Se io gli tolgo sicurezza e gli tolgo il terreno sotto i piedi, e questa persona si chiude. E allora c'è il desiderio di fuga. La fuga da sé, la droga, le amicizie, la pornografia, l'alcol, non è solo la fuga da se stesso, ma anche dalla realtà. Perché non mi sento capace di affrontarlo. Io ho una domanda da fare. Sì. Ci spostiamo nell'era della tecnologia, no? In cui tutto è molto veloce, è molto rapido. E i ragazzi hanno, i nativi digitali hanno hanno risposte molto rapide, basta cliccare e arriva subito la risposta alle loro domande, ma qualsiasi cosa diventa molto, sono abituati ad altri tempi e questi tempi non favoriscono la riflessione, il portare pazienza, quindi questo non portare pazienza, non riflettere, secondo me crea una lacuna. Come possiamo aiutare i nostri figli, questa generazione di nativi digitali, a fare un passo indietro, certamente non usando i mezzi tecnologici, ma quali mezzi umani possiamo usare per portarli un attimino alla riflessione, ai tempi di attesa, a portare pazienza? Sì. Innanzitutto ci sono anche dei videogiochi che prevedono l'attesa, cioè dei videogiochi per cui uno, per passare da un sistema all'altro, da un livello all'altro, ci mette tempo proprio, e quello fa sì che uno impari l'attesa. E poi, con quello che dicevamo prima, del ridefinire un contatto manuale con le cose anche. Per esempio, i libri per bambini piacciono sempre, fin da quando sono piccoli piccoli, cioè fin da quando hanno un anno e mezzo, ci sono questi libri di cartone rigidi che sono fatti apposta per loro, che loro distruggono lo stesso, però gli fa bene avere questa manualità di dover girare la pagina e di incontrare quella figura che li impressiona, anche se è semplicissima come figura, perché questo abitua proprio all'idea del libro e all'idea della storia che ha un inizio e poi continua e poi ha la fine. Allora, fino ai 2 anni e mezzo più o meno vanno benissimo questi di cartone con le singole figure. Dopo si passa anche alla tattilità, cioè nel senso che ci sono questi libri con dei peluche dentro, oppure che hanno la musichetta, e questi vanno benissimo. Cioè c'è tutta una strumentazione oggi, che non è solo quella del computer, ma una strumentazione fatta molto bene anche per i bambini piccoli proprio, per l'abitudine a quella che ho chiamato prima la noia intellettuale, cioè il vincere la noia intellettuale, per cui uno si applica intellettualmente senza annoiarsi, o meglio vincendo questa noia. Gli strumenti ci sono, e poi anche il gioco tra amici, il gioco tra coetanei serve tantissimo, perché a loro non si proietta solo nel computer, ma ci sono gli amici, con le loro differenze, con le loro cattiverie, con le loro simpatie anche. Cioè non chiudere, il pericolo è quello di assolutizzare, come dicevamo prima, il mezzo elettronico, per cui il social diventa necessarissimo e il computer anche, per cui io sto sempre sul social. Adesso con i cellulari che ci sono adesso, uno potrebbe stare 24 ore al giorno sul cellulare con l'impressione di non aver perso assolutamente tempo per lavoro, per messaggi, per email, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Invece non è così, se uno perde i suoi rapporti umani, perde tempo. Però ci sono gli strumenti. Ci sono anche luoghi culturali dove questi strumenti vengono sviluppati. Se non ci sono altre domande, ringraziamo allora il dottor Bettettini di questo intervento. Lui forse voleva domandare qualcosa là in fondo. Ecco, tu, fai la domanda. No, questa fatica della lettura che diceva, puoi cominciare a cambiare, si può incontrare qualsiasi età. Sì, perché basta scegliere il libro giusto per la persona giusta. Cioè chiaramente io non faccio leggere dei mattoni come prima lettura ad uno che non ha mai letto niente, però deve essere una cosa lenta, per cui uno prende passione. E poi anche io, per esempio, suggerisco di non usare i libri sul computer, sul tablet, ma di mantenere l'abitudine del libro, questo qua, del libro cartaceo, perché c'è tutta una manualità che non va persa. Poi è chiaro che se uno è in treno e non vuole portarsi dietro l'enciclopedia, si porta dietro il tablet. Però se uno è in casa e per insegnare ai figli a leggere, questo gesto qui secondo me resta fondamentale, e sono convinto, sono sicuro che non lo si perderà mai. Cioè che anche se avremo le lenti degli occhiali con i libri che passano schiacciando un po' più vicino qui, però poi la bellezza di leggere un libro non ce la toglie nessuno. La bellezza di addormentarsi la sera col libro sul libro non ce la toglie nessuno. Bene, grazie a voi.